Eliza finì per innamorarsi della libertà. Era vissuta tra quattro mura in casa dei Somers, in un ambiente sempre identico a se stesso, in cui il tempo girava in tondo e in cui si intravedeva a malapena la linea dell'orizzonte attraverso le finestre tormentate. Era cresciuta nell'impenetrabile armatura delle buone maniere e delle convenzioni, allenata da sempre a compiacere e a servire, nelle limitazioni imposte dal bustino, dalla routine, dalle norme sociali e dalla paura. Il timore era sempre stato il suo compagno, timore di Dio e della sua imprevedibile giustizia, dell'autorità, dei genitori adottivi, della malattia, della maldicenza, di quanto era sconosciuto e diverso di rinunciare alla protezione della casa e di affrontare i pericoli della strada. Timore della sua fragilità femminile, del disonore e della verità. La sua era stata una realtà zuccherata, fatta di omissioni, silenzi cortesi, segreti ben mantenuti, ordine e disciplina. Sua aspirazione era stata la virtù, ma ora dubitava del significato di quella parola. Dandosi a Joaquin Andieta, nella stanza degli armadi, aveva commesso un errore irreparabile agli occhi del mondo, ma ai suoi l'amore giustificava tutto. Non sapeva cosa avesse perduto o guadagnato con quella passione. Era partita dal Cile con il proposito di ritrovare l'amante e di diventare per sempre sua schiava, credendo che così avrebbe placato la sete di sottomissione e di recondito anelo al possesso. Ma ora non si sentiva più in grado di rinunciare a quelle giovani ali che stavano iniziando a crescerle sulle spalle. Non aveva rimorsi per quanto aveva condiviso con l'amante, né si vergognava della fiammata che l'aveva sconvolta, anzi sentiva che l'aveva resa forte tutto a un tratto e che le aveva dato la fierezza necessaria per prendere delle decisioni e per pagarne le conseguenze. Non doveva spiegazioni a nessuno. Se aveva commesso degli errori, li aveva pagati sufficientemente cari con la perdita della famiglia, le settimane di tormento sepolta nella stiva, il figlio morto e l'assoluta incertezza circa il futuro. Quando era rimasta incinta e si era sentita in trappola, aveva scritto sul diario di aver perso il diritto alla felicità. E tuttavia, in quegli ultimi mesi in cui aveva cavalcato per il dorato paesaggio californiano, aveva provato la sensazione di volare come un condor. Una mattina si era svegliata al nitrito del suo cavallo e con la luce dell'alba in viso. Si era vista circondata da superbe sequoie che come guardiani centenari avevano vegliato sul suo sonno, da dolci pendii e in lontananza dalle alte cime violette. E allora era stata invasa da una felicità mai sperimentata prima. Si era resa conto che ormai era sparita quella sensazione di panico, sempre acquattata nella bocca dello stomaco come un topo pronto a mordere. Le paure si erano diluite nella superba grandiosità di quel territorio e a mano che affrontava i rischi aveva acquistato audacia e aveva perso la paura della paura. Sto scoprendo in me nuove forze che forse ho sempre avuto ma che non conoscevo perché fino ad ora non avevo avuto bisogno di ricorrervi. Non so a quale curva della strada si sia persa la persona che ero prima, Tao. Ora sono un altro degli innumerevoli avventurieri dispersi sulle rive di questi fiumi trasparenti e sulle falde di queste montagne eterne. Sono uomini orgogliosi che sopra i loro cappelli hanno solo il cielo, che non si piegano davanti a nessuno perché stanno inventando l'uguaglianza. E io voglio essere uno di loro. Alcuni camminano vittoriosi con una borsa d'oro sulle spalle, altri procedono sconfitti con l'unico fardello delle disillusioni e dei debiti, ma tutti si sentono padroni del proprio destino, della terra che calpestano, del futuro, della propria inoppugnabile dignità. Dopo averli conosciuti, non posso tornare a essere una signorina come voleva Miss Rose. Ora posso capire Joaquin quando rubava ore preziose al nostro amore per parlarmi di libertà. Era di questo che parlava, di questa euforia, di questa luce, di questa felicità intensa come i rari momenti d'amore passati insieme che riesco a ricordare. Sento la tua mancanza, Tao. Non so con chi parlare di quello che vedo, di quello che provo. Non ho un amico in queste zone desolate e nella mia parte di uomo sto molto attenta a quel che dico. Sono sempre accigliata perché mi credano un vero uomo. È scomodo essere uomini, ma essere donne, lo è ancora di più. Vagando da una zona all'altra, arrivò a conoscere l'aspro territorio come se fosse nata lì. Poteva localizzare il punto in cui si trovava e calcolare le distanze. Distingueva i serpenti velenosi da quelli innocui e i gruppi ostili da quelli amichevoli. Prevedeva il tempo dalla forma delle nuvole, deduceva l'ora dall'angolo della sua ombra, sapeva cosa fare quando si imbatteva in un orso e come avvicinarsi a una capanna isolata senza essere ricevuta a colpi di pistola. A volte incontrava giovani appena arrivati che trascinavano su per i pendii complicate macchine estrattive che alla fine venivano abbandonate quando risultavano inutilizzabili, o incrociava gruppi di uomini febbricitanti che scendevano dai monti dopo mesi di inutile lavoro. Non poteva dimenticare quel cadavere becchettato dagli uccelli che pendeva da un rovere con un cartello di avvertimento. Nel suo peregrinare vedeva americani, europei, canacas, messicani, cileni, peruviani, nonché lunghe file di cinesi silenziosi, agli ordini di un caposquadra che, pur appartenendo alla loro stessa razza, li trattava come servi e li pagava con le briciole. Portavano un fagotto sulla schiena e gli stivali in mano perché avevano sempre usato pantofole e non sopportavano pesi ai piedi. Era gente parsimoniosa, viveva di niente e spendeva il meno possibile. Compravano calzature grandi perché le credevano più resistenti e rimanevano sbalorditi quando appuravano che il prezzo era lo stesso di quelle piccole. Eliza affinò l'istinto a eludere i pericoli, imparò a vivere alla giornata senza fare progetti, come le aveva consigliato Tao Qian. Pensava spesso a lui e gli scriveva assiduamente, ma poteva spedire le lettere solo quando arrivava a un paese con servizio postale per sacramento. Era come lanciare messaggi nella bottiglia in mare, perché non sapeva se lui vivesse ancora in quella città e l'unico indirizzo sicuro che possedeva era quello del ristorante cinese. Sapeva che se le sue lettere fossero arrivate fin lì, sicuramente gliele avrebbero date. Gli raccontava del paesaggio meraviglioso, del caldo e della sete, delle colline, delle curve voluttuose, degli imponenti roveri e dei pini slanciati, dei fiumi gelati dall'acqua talmente limpida che si poteva vedere l'oro brillare nel loro letto, delle oche selvatiche che gracchiavano in cielo, dei cervi e dei grandi orsi, della dura vita dei minatori e del miraggio della fortuna facile. Gli diceva quel che entrambi già sapevano, che non valeva la pena sprecare la vita a caccia di una polvere gialla, e indovinava la risposta di Tao, che non valeva la pena nemmeno di sprecarla inseguendo un amore illusorio, ma lei tirava dritta per la sua strada, perché non poteva fermarsi. Joaquin Andieta iniziava a dissolversi, la sua buona memoria non riusciva a disegnare con precisione i tratti dell'amante, doveva rileggere le lettere d'amore per essere certa che fosse realmente esistito, che si erano amati e che le notti nella stanza degli armadi non erano un inganno della sua immaginazione. E così rinnovava il dolce tormento dell'amore solitario. A Tao Qian descriveva la gente che conosceva strada facendo, le masse di immigranti messicani che si erano stabiliti a Sonora, l'unico paese in cui scorrazzavano bambini per le strade, le umili donne che l'accoglievano sempre nelle loro case d'argilla senza sospettare che fosse una di loro, le migliaia di giovani americani che si erano recati ai giacimenti quell'autunno dopo aver attraversato via terra il continente dalle coste dell'Atlantico a quelle del Pacifico. Calcolava che fossero circa 40.000 i nuovi arrivati, ognuno di loro pronto ad arricchirsi in un batter d'occhio e a tornare trionfalmente al suo paese. Venivano chiamati quelli del 49, nome che divenne talmente popolare da essere adottato anche da chi era arrivato prima o dopo. A est, interi paesi rimanevano privi di uomini, abitati solo da donne, bambini e prigionieri. Vedo pochissime donne nelle miniere, ma ce ne sono alcune con sufficiente fegato da accompagnare i mariti in questa vita da cani. I bambini muoiono per le epidemie e gli incidenti, le madri li seppelliscono, li piangono e continuano a lavorare, dall'alba al tramonto, per impedire che la barbarie rada al suolo ogni traccia di dignità. Si arrotolano le gonne e si mettono in acqua a cercare l'oro, ma alcune scoprono che è più produttivo lavare la biancheria altrui o sfornare biscotti. E così guadagnano più loro in una settimana che i loro compagni in un mese nei giacimenti. Un uomo solo paga volentieri 10 volte il suo prezzo, un pane impastato da mani femminili. Se cerco di venderlo io vestita da Elias Andieta mi danno solo qualche spicciolo, Tao. Gli uomini sono capaci di camminare per parecchie miglia pur di vedere una donna da vicino. Una ragazza ferma a prendere il sole davanti a una taverna. In pochi minuti si ritrova sulle ginocchia una collezione di sacchettini d'oro, omaggio degli uomini stupiditi dall'evocativa visione di una gonna. E i prezzi continuano a crescere. I minatori sempre più poveri e i commercianti sempre più ricchi. In un momento di disperazione ho pagato $1 per un uovo e me lo sono ingoiato crudo con una spruzzata di brandy, sale e pepe, come mi aveva insegnato mamma Fresia, rimedio infallibile per la desolazione. Ho conosciuto un ragazzo che viene dalla Georgia, un poveretto che ora è squilibrato, ma che mi hanno detto prima non era così. All'inizio dell'anno aveva trovato un filone e dalle rocce era riuscito a raschiare con un cucchiaio $9.000, ma poi li perse in una sera, giocando al monte. Ah, Tao, non puoi immaginarti che voglia ho di farmi un bagno, di preparare il tè e di sedermi a chiacchierare con te. Mi piacerebbe indossare un vestito pulito e mettermi gli orecchini che mi ha regalato Miss Rose perché tu mi possa vedere carina e non creda che io sia un maschiaccio. Sto annotando sul mio diario tutto quello che succede, così potrò raccontarti i dettagli quando ci incontreremo, perché, almeno di questo sono certa, un giorno saremo di nuovo insieme. Penso a Miss Rose e a quanto deve essere arrabbiata con me, ma non posso scriverle prima di aver trovato Joaquin, perché fino a quel momento nessuno deve sapere dove mi trovo. Se Miss Rose avesse solo una vaga idea di tutte le cose che ho visto e sentito, morirebbe. Questa è la terra del peccato, direbbe Mr. Somers. Qui non ci sono né morale né leggi, imperano i vizi del gioco, l'alcol e i bordelli. Ma per me questo paese è un foglio in bianco. Qui posso scrivere la mia nuova vita, trasformarmi in quello che voglio. Nessuno tranne te mi conosce, nessuno conosce il mio passato. Posso nascere di nuovo. Qui non ci sono né signori né servi, ma solo gente che lavora. Ho visto antichi schiavi mettere insieme l'oro sufficiente a finanziare giornali, scuole e chiese per quelli della loro razza, lottando contro la schiavitù in California. Ne ho conosciuto uno che ha comprato la libertà della madre. La povera donna è arrivata ammalata e invecchiata, ma adesso guadagna quanto vuole vendendo cibo. Ha acquistato un ranch e la domenica va in chiesa vestita di seta su una carrozza con 4 cavalli. Sai che molti marinai neri hanno disertato le navi non solo per l'oro, ma perché qui trovano l'unica forma di libertà? Ricordo le schiave cinesi che a San Francisco mi hai mostrato affacciate dietro quelle sbarre. Non posso dimenticarle, mi mettono angoscia. Da queste parti anche la vita delle prostitute è durissima, alcune si suicidano. Gli uomini attendono ore per salutare rispettosamente la nuova maestra, ma le ragazze dei saloon le maltrattano. Sai come le chiamano? Colombe infangate. E anche gli indiani si suicidano, Tao. Vengono respinti dappertutto e si aggirano affamati e disperati. Nessuno offre loro lavoro e, come se non bastasse, li accusano di vagabondaggio e li incatenano ai lavori forzati. I sindaci pagano $5 per ogni indiano morto. Li ammazzano per diporto, a volte strappano loro il cuoio capelluto. Non mancano gringo che collezionano questi trofei da esibire appesi ai finimenti. Ti farà piacere sapere che ci sono cinesi che sono andati a vivere con gli indiani. Vanno lontano verso i boschi del nord, dove si può ancora cacciare. Nelle praterie sono rimasti ben pochi bufali, dicono. Alla fine del combattimento dell'orso, in cui aveva scommesso tutto il suo denaro, Eliza si ritrovò senza soldi e affamata. Non mangiava dal giorno prima e decise che mai più avrebbe puntato i suoi risparmi a stomaco vuoto. Quando ormai aveva venduto tutto quello che poteva, rimase un paio di giorni senza sapere come sopravvivere e poi si mise a cercare lavoro per scoprire che guadagnarsi da vivere era molto più facile di quanto sospettasse e comunque certamente da preferire rispetto alla ricerca di qualcuno che sostenesse le spese. Senza un uomo che la protegga o la mantenga, una donna è perduta, le aveva ripetuto Miss Rose fino alla nausea, ma lei scoprì che non sempre era così. Calata nel ruolo di Elias Andieta, trovava lavori che avrebbe potuto fare benissimo anche vestita da donna. Farsi assumere come bracciante o come bovaro era impossibile, non sapeva usare né un attrezzo né un lazzo e non aveva abbastanza forza per sollevare una pala o prendere un torello, ma non mancavano opportunità a cui invece poteva aspirare. Quel giorno Fece ricorso alla penna, proprio come aveva fatto tante volte prima. L'idea di scrivere lettere era stato un buon consiglio del suo amico, il postino. Se non poteva farlo nella taverna, stendeva la sua coperta castigliana in mezzo a una piazza, ci sistemava sopra carta e calamaio e poi sbandierava la sua professione a squarciagola. Molti minatori faticavano a leggere con scioltezza o a firmare e non avevano mai scritto una lettera in vita loro, ma tutti attendevano la posta con un batticuore commovente. Era l'unico contatto con le famiglie lontane. I vapori del Pacific Mail arrivavano a San Francisco ogni 2 settimane con i sacchi della corrispondenza e non appena si profilavano all'orizzonte, la gente correva a mettersi in fila davanti all'ufficio postale. Gli impiegati ci mettevano 10 o 12 ore per distribuire il contenuto dei sacchi, ma a nessuno importava di dover aspettare una giornata intera. Da lì alle miniere la corrispondenza tardava ancora diverse settimane ad arrivare. Eliza offriva i suoi servizi in inglese e spagnolo, leggeva le lettere e preparava le risposte. Se al cliente a malapena venivano in mente due frasi laconiche per comunicare che era ancora vivo e mandare tanti saluti ai suoi, lei lo interrogava con pazienza e aggiungeva un racconto più fiorito fino a riempire perlomeno una pagina. Chiedeva $2 a lettera, senza badare alla lunghezza, ma se aggiungeva frasi sentimentali che all'uomo mai sarebbero venute in mente, solitamente riceveva una buona mancia. Alcuni le portavano lettere da leggere e abbelliva anche queste, così il povero uomo riceveva la consolazione di qualche parola affettuosa. Le donne, stanche di aspettare dall'altra parte del continente, in genere scrivevano solo lamentele, rimproveri o una sfilza di consigli cristiani, dimentiche del fatto che i loro uomini erano ammalati di solitudine. Un triste lunedì arrivò uno sceriffo a cercarla perché scrivesse le ultime parole di un condannato a morte, un ragazzo del Wisconsin che quella stessa mattina era stato accusato di aver rubato un cavallo. Imperturbabile, nonostante i 19 anni compiuti di fresco, il ragazzo dettò a Eliza: "Cara mamma, spero che stia bene quando riceverà queste righe. La prego di dire a Bob e a James che oggi mi impiccano. Saluti, Theodore." Eliza cercò di ammorbidire un po' col messaggio per evitare una sincope alla sfortunata madre, ma lo sceriffo disse che non c'era tempo per i salamelecchi. Alcuni minuti dopo, diversi onesti cittadini condussero il reo in mezzo al paese, lo fecero sedere su un cavallo con una corda al collo, passarono l'altra estremità sul ramo di un rovere, diedero un colpo sulla groppa dell'animale e Theodore rimase appeso senza tante cerimonie. Non era il primo che Eliza vedeva, perlomeno questa punizione era rapida, ma se l'accusato apparteneva a un'altra razza, generalmente veniva frustato prima dell'esecuzione. E anche se lei si allontanava, le grida del condannato e la baraonda degli spettatori la inseguivano per settimane. Quel giorno era sul punto di chiedere se poteva sistemarsi nella taverna per svolgere il suo lavoro di scribacchina, quando un gran chiasso richiamò la sua attenzione. Giusto, mentre il pubblico si stava disperdendo dopo il combattimento dell'orso, nell'unica strada del paese stavano entrando dei carri trainati da muli, preceduti da un ragazzino indiano che suonava un tamburo. Non erano veicoli come tutti gli altri. I rivestimenti di stoffa erano dipinti, dai tetti pendevano frange, pompon e lampade cinesi e i muli, addobbati come animali da circo, erano accompagnati da un insopportabile tintinnio di campanacci di rame. Seduta a cassetta sulla prima vettura si trovava un donnone dai seni enormi, vestita con abiti maschili e con una pipa da bucaniere tra i denti. Il secondo carro era guidato da un gigantesco individuo ricoperto da lise pelli di lupo, testa rasata, cerchi alle orecchie, armato come se dovesse partire per il fronte. Entrambe le carrozze ne avevano una a rimorchio su cui viaggiava il resto della compagnia, quattro ragazze acconciate di velluto sgualcito e broccato avvizzito, che mandavano baci al pubblico stupefatto. Lo sbigottimento durò solamente un istante. Non appena riconobbero i carriaggi, una salva di grida e di colpi di pistola in aria ravvivò il pomeriggio. Fino ad allora le colombe infangate avevano regnato senza concorrenza femminile. Ma la situazione era cambiata quando nei nuovi paesi si erano insediate le prime famiglie e i predicatori che scuotevano le coscienze minacciando la condanna eterna. In mancanza di chiese organizzavano le funzioni religiose negli stessi saloon dove prosperava il vizio. Per un'ora veniva sospesa la vendita d'alcol, i mazzi di carte venivano ritirati, i quadri lascivi girati e gli avventori ricevevano i severi rimproveri del pastore per i loro errori e la loro dissolutezza. Affacciate al balcone del secondo piano, le prostitutte sopportavano filosoficamente la lavata di capo, consolate dalla certezza che nel giro di un'ora tutto sarebbe tornato nel suo alveo naturale. Finché gli affari andavano bene, non aveva molta importanza se chi le pagava per fornicare poi le incolpasse di ricevere il pagamento, come se il vizio fosse non di chi lo cercava, ma di chi induceva in tentazione. Una netta divisione tra le donne decenti e le donnacce veniva così stabilita. Stanche di corrompere le autorità e di sopportare umiliazioni, alcune si spostavano con i loro bauli in un altro luogo, dove prima o poi il ciclo si compiva nuovamente. L'idea di un servizio itinerante offriva il vantaggio non solo di eludere l'assedio delle mogli e dei religiosi, ma anche di espandere l'orizzonte alle zone più remote dove si incassava il doppio. Gli affari andavano a gonfie vele quando il clima era buono, ma l'inverno era alle porte, presto sarebbe caduta la neve e le strade sarebbero diventate intransitabili. Questo era uno degli ultimi viaggi della comitiva. I carri percorsero la strada e si fermarono all'uscita del paese, seguiti da una processione di uomini ringalluzziti dall'alcol e dal combattimento dell'orso. Anche Liza si avviò in quella direzione per vedere da vicino la novità. Capì che sarebbero venuti meno i clienti della sua attività epistolare e che doveva trovarsi un altro modo di guadagnarsi la cena. Approfittando del cielo sereno, diversi volontari si offrirono per sganciare i muli e aiutare a scaricare un pianoforte sconquassato che collocarono sul prato agli ordini della tenutaria che tutti chiamavano con il grazioso nome di Joe Spaccaossa. In un battibaleno fu sgomberato un pezzo di terra, vennero sistemati i tavoli e per magia apparvero bottiglie di rum e pile di cartoline di donne nude. E anche due casse di libri a poco prezzo che vennero annunciati come romanzi d'alcova con le scene più piccanti di Francia. Venivano venduti a 10 dollari, una bazzecola perché grazie a loro ci si poteva eccitare tutte le volte che si voleva e si poteva anche prestare agli amici. Erano molto più convenienti di una donna vera, spiegò la Spaccaossa. E per dimostrarlo lesse un passaggio che il pubblico ascoltò in un silenzio di tomba come se si trattasse di una rivelazione profetica. Uno scroscio di risate e di battute accolse la fine della lettura e in pochi minuti non rimase un solo libro nelle casse. Nel frattempo era scesa la notte e si dovette illuminare la festa con torce. La maîtresse annunciò il prezzo esorbitante delle bottiglie di rum, ma ballare con le ragazze costava un quarto. «C'è qualcuno che sappia suonare questo maledetto pianoforte?» chiese. Allora Eliza, che ci vedeva doppio dalla fame, si fece avanti senza pensarci due volte e si sedette di fronte allo strumento scordato, invocando Miss Rose. Non suonava da 10 mesi e non aveva un buon orecchio, ma accorsero in suo aiuto l'allenamento di anni con la bacchetta metallica sulla schiena e i colpi sulle mani del professore belga. Attaccò con una delle canzonette ammiccanti che Miss Rose e suo fratello, il capitano, erano soliti cantare in duetto nei tempi innocenti delle serate musicali. Prima che il destino desse un colpo di coda e il suo mondo si capovolgesse. Con stupore notò che la sua goffa esecuzione veniva accolta molto bene. In meno di 2 minuti comparve un rozzo violino di accompagnamento, si animò il ballo e gli uomini si contendevano le 4 donne per saltare e trottare sulla pista improvvisata. L'orco con le pelli tolse il cappello a Eliza e lo mise sul piano con un gesto talmente risoluto che nessuno osò ignorarlo e presto si riempì di mance. Uno dei carri veniva usato esclusivamente come alloggio della tenutaria e del figlio adottivo, il bambino del tamburo. Su un altro viaggiavano pigiate le altre donne e i due rimorchi erano trasformati in alcove. Ognuno di essi, foderato con foulard multicolori, conteneva una branda con 4 colonnine e baldacchino con lembi di zanzariera, uno specchio dalla cornice dorata, lavamano e bacinella di maiolica, tappeti persiani stinti e un po' tarmati, ma ancora appariscenti, e bugie con grandi candele. Questa decorazione teatrale incoraggiava gli avventori, nascondeva la polvere delle strade e i danni derivanti dall'uso. Mentre due ragazze ballavano al suono della musica e altre due sbrigavano rapidamente il loro compito nei carriaggi, La maîtresse, dotata di mani di fata per le carte, non trascurava di frequentare i tavoli da gioco né di riscuotere anticipatamente i servizi delle sue colombe, di vendere il rum e di ravvivare la baldoria, sempre con la pipa tra i denti. Eliza suonò le canzoni che conosceva a memoria e quando il repertorio terminava ricominciava da capo, senza che nessuno notasse la ripetizione, fino a quando non le si annebbiò la vista dalla fatica. Vedendola sul punto di cedere, il colosso annunciò una pausa, raccolse i soldi dal cappello e li mise nelle tasche della pianista, poi la prese per un braccio e la trasportò, praticamente sospesa, nella prima vettura, dove le mise in mano un bicchiere di rum. Lei lo rifiutò con un gesto appena accennato, berlo a stomaco vuoto equivaleva a una randellata in piena nuca, allora lui rovistò nel disordine di casse e recipienti ed esibì un panino e pezzi di cipolla, che lei assalì tremando di aspettativa. Quando li ebbe divorati, sollevò lo sguardo e si ritrovò davanti il tizio delle pelli che la osservava dalla sua incredibile altezza. Lo illuminava un sorriso innocente dai denti più bianchi e più uguali del mondo. «Hai la faccia da donna», le disse, e lei ebbe un sussulto. «Mi chiamo Elia Sandieta», replicò portandosi la mano alla pistola come se fosse pronta a difendere il suo nome maschile a colpi di pallottole. «Io sono Babalù il cattivo». «Ah sì? C'è un Babalù buono?» «C'era. Cosa gli è successo?» «Mi ha incontrato. Da dove vieni, bambino?» «Dal Cile. Sto cercando mio fratello. Non hai sentito nominare Joaquín Andieta?» «Mai. Da nessuno. Ma se tuo fratello ha le palle al posto giusto, prima o poi verrà a farci visita. Tutti conoscono le ragazze di Joe Spaccaossa». Affari. Il capitano John Somers ancorò il Fortuna nella baia di San Francisco, a distanza sufficiente dalla riva per impedire a qualche tipo coraggioso di avere l'audacia di buttarsi in acqua e di nuotare fino alla costa. Aveva avvertito l'equipaggio che l'acqua fredda e le correnti li avrebbero fatti fuori in meno di 20 minuti nel caso in cui non avessero provveduto gli squali. Era il suo secondo viaggio con il ghiaccio e si sentiva più sicuro. Prima di imboccare lo stretto canale del Golden Gate, fece aprire varie botti di rum, lo distribuì generosamente tra i marinai e quando questi furono ubriachi sfoderò un paio di rivoltelle e li obbligò a sdraiarsi a terra faccia in giù. Il secondo di bordo li incatenò con ceppi ai piedi tra lo sbigottimento dei passeggeri imbarcati a Valparaiso che osservavano la scena dalla prima coperta senza capire cosa diavolo stesse succedendo. Nel frattempo, dal molo, i fratelli Rodriguez de Santa Cruz avevano inviato una flottiglia di scialuppe per condurre a terra i passeggeri e il prezioso carico dello steamer. L'equipaggio sarebbe stato liberato per le manovre di disancoraggio nel momento in cui l'imbarcazione fosse salpata per il ritorno. Dopo aver ricevuto altro alcol e un bonus in monete autentiche d'oro e d'argento, equivalente al doppio del salario. Ciò non li ricompensava dell'impossibilità di scendere a terra e addentrarsi alla ricerca delle miniere, come quasi tutti avevano progettato, ma almeno, li consolava. Aveva fatto ricorso allo stesso metodo durante il primo viaggio con eccellenti risultati e si vantava di capitanare una delle poche imbarcazioni che non erano state abbandonate a causa della follia dell'oro. Nessuno osava sfidare quel pirata inglese figlio di una puttana e di Francis Drake, come lo chiamavano, perché non v'era il minimo dubbio che non avrebbe esitato a scaricare i suoi tromboni sul petto di chiunque avesse provato a ribellarsi. Sul molo di San Francisco vennero impilate le merci imbarcate da Paolina a Valparaiso. Uova e formaggi freschi, frutta e verdura dell'estate cilena, burro, sidro, pesci e frutti di mare insaccati delle migliori qualità, carne vaccina e ogni sorta di volatile ripieno e condito pronto per essere cucinato. Paolina aveva commissionato alle monache pasticcini al latte, torte mille foglie, come anche intingoli tipici della cucina creola, che viaggiarono congelati nelle celle di neve azzurra. La prima spedizione era stata presa d'assalto in meno di 3 giorni con un utile talmente vertiginoso che i fratelli trascurarono gli altri affari per concentrarsi sui prodigi del ghiaccio. Le lastre si scioglievano lentamente durante la navigazione, ma ne rimanevano molte che il capitano pensava di vendere a prezzi da usuraio a Panama nel viaggio di ritorno. Fu impossibile mantenere il silenzio sul formidabile successo del primo viaggio e si diffuse alla velocità della luce la notizia che alcuni cileni navigavano con pezzi di un ghiacciaio a bordo. Immediatamente si costituirono delle società pronte a fare la stessa cosa con gli iceberg dell'Alaska, ma risultò impossibile trovare equipaggi e prodotti freschi in grado di competere con quelli cileni e Paulina poté proseguire senza rivali nell'intensa attività e dotarsi di un secondo vapore per ampliare il giro d'affari. Anche le casse di libri erotici del capitano Somers vennero vendute in un batter d'occhio, ma più discretamente e senza passare per le mani dei fratelli Rodriguez de Santa Cruz. Il capitano doveva evitare a qualsiasi costo che si levasse il coro di voci virtuose, come era successo in altre città, che la censura li confiscasse in quanto immorali e che finissero bruciati in pubblici roghi. In Europa circolavano segretamente in edizioni di lusso tra gran signori e collezionisti, ma la maggior parte degli introiti proveniva dalle edizioni a diffusione popolare. Erano stampati in Inghilterra, dove si vendevano clandestinamente per pochi spiccioli, ma in California il capitano guadagnava 50 volte il loro valore. Visto l'entusiasmo scatenato da questo tipo di letteratura, tra virgolette, gli venne l'idea di inserirvi delle illustrazioni, dato che la maggior parte dei minatori era in grado di leggere solamente i titoli dei giornali. Le nuove edizioni erano già in corso di stampa a Londra, con disegni volgari ma espliciti che in fin dei conti erano l'unica cosa che interessasse.